Ecco, finalmente, finalmente celebriamo la messa insieme. Dopo più di 70 giorni, cui i sacerdoti hanno celebrato tutti i giorni, privatamente, pregando per la comunità. E so che tanti cristiani hanno pregato molto in questi giorni, anzi qualcuno diceva: mai pregato così tanti rosari, mai visto così tante messe alla televisione come in questi giorni. E questo è bello e significativo che il cristiano, tantissimi hanno visto la messa del Papa tutte le mattine alle 7, persino un canale della RAI la trasmetteva, vista l'audience molto alta. Tuttavia anche il Papa diceva: stiamo attenti a non cadere però in una realtà solo virtuale, perché la nostra fede e la Chiesa non è fatta solo di immagini, è fatta di realtà. Guardate che questo pericolo c'è. Una persona mi telefonava e diceva: ma bisogna per forza venire per fare il precetto alla domenica o si può stare anche alla televisione? E io gli ho detto: beh, vedi te, la comunione alla televisione non la puoi fare. E un'altra mi chiedeva: ma la comunione spirituale vale come la comunione fatta in chiesa? Dico: signora, no, ma come, se anche il Papa nella messa tutti i giorni faceva la comunione spirituale per quelli che non potevano ricevere? Per quelli che non potevano riceverla, ma adesso che è possibile, veniamo in chiesa, perché fa parte della fede, ma fa parte della umanità il ritrovarsi. Il ritrovarsi. Certamente abbiamo scoperto il lavoro da casa, ma la gente comincia ad averne anche abbastanza, tanti, e dicono: così lavori il doppio, e poi è anche bello andare a viaggiare, trovarsi con le persone. E tanti bambini interpellati dicono: mi mancano i miei compagni a scuola. Perché l'uomo è fatto di sua natura per la comunione, per lo stare insieme. Questo è dentro, iscritto nella nostra natura umana, ma anche nella natura animale, anche nella natura vegetale. Qui nel cortile della casa parrocchiale, all'altezza mia, in un cespuglio, c'è dentro un bel nido di merli. E io vado lì ogni tanto a spiare la merla che sta covando quattro uova e non si spaventa. Ma è fantastico, avendo del tempo, vedere tutto il gioco tra il merlo maschio che gira e che fa i suoi richiami e che fa, e la femmina che risponde. A un certo punto il merlo, vum, si precipita dentro in questo cespuglio. Ma tu dici: ma guarda, degli uccelli. Cosa c'è più normale di un uccello che vola per aria? Eppure anche lì l'unità. Mangeremo della frutta nuova, mangeremo delle mele, delle pesche, ma anche lì, per poter mangiare un frutto, si unisce il pistillo con lo stame, se no quel fiore bellissimo di pesco cade. Non diventa frutto. Per non parlare dell'umanità, dell'uomo e della donna che si uniscono per generare la vita. Come mai dentro nella natura sembra che ci sia dentro un programma, un software che dice l'unità, il ricongiungersi? E questo lo troviamo persino nel Vangelo. Non so se avete notato il Vangelo dei discepoli di Emmaus, che noi conosciamo a memoria, però mentre io me lo leggevo per preparare questo pensiero, notavo: due discepoli del Signore Gesù erano in cammino. Mi sono fermato, due, anche lì. E quando Gesù manda i suoi discepoli, e li mandò a due, come mai? Dall'uccellino all'uomo e alla donna che partoriscono un figlio, al melo, alla natura tutta, siamo fatti secondo questo ritrovarsi in unità. C'è dentro nella natura questo programma? Sì, si chiama Trinità. Quando noi pensiamo alla Trinità, cioè quando noi non pensiamo, perché normalmente la gente non pensa alla Trinità, magari pensa alla Madonna, fa bene, ma non è Dio. Pensa a Padre Pio, anch'io lo faccio, ma non è Dio. Mi spiace un po' quando la gente viene dentro in chiesa, va a accendere una candela alla Madonna, non degna neanche di uno sguardo il tabernacolo. Cosa c'entra il tabernacolo? Sono venuto a accendere una candela alla Madonna. Cari amici, c'è dentro nella nostra fede la Trinità, questo Dio unico, ma in tre persone uguali, ma distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo la Chiesa ce lo ricorderà fra non molto, perché andiamo incontro a un periodo di grandi feste. Abbiamo appena fatto l'Ascensione, Gesù che ritorna al Padre. Avremo la Pentecoste, Gesù e il Padre che mandano lo Spirito Santo. Poi verrà la festa della Trinità, il Corpus Domini, è una serie di feste in cui noi, se stiamo attenti, possiamo scoprire qual è il progetto che Dio ha dato all'umanità. Ognuno è se stesso, ma tendere all'unità, come nella Santa Trinità. Ogni persona è se stessa, ma tende all'unità. Conclusione, perché questa può essere una riflessione teologica, filosofica. Cari amici, non si può essere cristiani se non nella Chiesa, perché nessun uomo è un'isola, ma si è cristiani come Gesù Cristo ha voluto, cioè con i dodici apostoli. Pensate, Gesù ci teneva così tanto che quando uno ha tradito Giuda, la Chiesa è andata subito a cercarne un altro, perché sennò il collegio apostolico non sarebbe stato completo secondo il disegno di Dio. Teniamo a mente questo, amici. Non si può essere cristiani da soli, o davanti al televisore, o dicendo anche il rosario da soli, collegati con qualche santuario italiano. La comunità. E allora, che è la Chiesa. E allora ricominciamo, cari cristiani, con slancio. Il riprendere a vivere la fede, ma a due, a dieci, a cento, dentro la Chiesa, perché Dio è uno e trino, e tutta la natura, da quella vegetale a quella animale, a quella pensante, l'uomo, alla Chiesa, è fatta sul modello dell'unità e della Trinità di Dio.